Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli e benvenuti alla rassegna stampa di Radio 24 dedicata alle pagine che si occupano di Europa o ai giornali europei. Cominciamo allora dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung, il giornale tedesco, che ha parlato molto delle decisioni della BCE e in generale della situazione economica in Germania, ma anche vista in ottica europea. E allora il primo articolo che ho segnato per voi è di un'intervista a Hans Werner Sinn, che è il capo dell'istituto economico IFO, che è un po' una sorta di non è un istituto statistico quello è Destatis, ma è un altro istituto economico importante. E secondo Sinn i tassi bassi della BCE stanno costando molto cari ai tedeschi. Sapete che appunto siamo in una situazione di tassi con un record, tanto sono bassi, e che però purtroppo non stanno dando, non soltanto per i tedeschi ma per l'Europa in generale, non stanno dando la spinta sperata dalla BCE alla ripresa economica. Secondo appunto Sinn, dal 2008 la Germania avrebbe perso 300 miliardi di euro per via di questa politica monetaria dell'Euro Tower, così è il sinonimo di BCE. Si tratta di una perdita che va dai 60 ai 70 miliardi all'anno, secondo i calcoli di Sinn, che è appunto uno dei più accreditati economisti tedeschi. Sempre la Frankfurter Allgemeine Zeitung si è occupata anche di Irlanda, Portogallo e Spagna, che sapete sono i paesi che negli ultimi anni hanno ricevuto più aiuti, perché le rispettive economie erano quelle più a rischio, diventava veramente una palla al piede per l'intera Unione Europea, e quindi è sembrato tra le due scelte quelle di fare degli aiuti di Stato oppure aspettare che questi paesi uscissero da solo dalla crisi. È stata scelta la prima ipotesi, e secondo in questo caso un altro economista tedesco, uno dei quelli che vengono chiamati cinque saggi dell'economia tedesca, si chiama Lars Feld, ebbene è possibile coniugare rigore e crescita. In Irlanda, Portogallo e anche in Spagna le condizioni per la crescita sono migliorate chiaramente, ha detto questo economista Feld alla Frankfurter Allgemeine Zeitung. La disoccupazione in Spagna scende dagli alti livelli precedenti. I positivi sviluppi sono da ricondurre al fatto che questi paesi, in particolare appunto Irlanda, Portogallo e Spagna, hanno compiuto riforme, tra l'altro sul mercato del lavoro, hanno risanato il sistema bancario che aveva problemi e hanno risanato le finanze pubbliche. Questo è un po' il grande motivo di confronto con l'Italia, cioè anche noi abbiamo un'economia, sappiamo benissimo, zoppica, non abbiamo ricevuto gli aiuti che hanno ricevuto Irlanda, Portogallo e Spagna, però il nodo resta sempre quello delle riforme, che devono essere il più strutturali, il più drastiche se vogliamo possibili, e sul momento fanno male, molto male, ma i casi appunto citati di questi tre paesi dimostrano che poi nel medio termine in realtà ci sono dei benefici. Financial Times invece si è occupato dell'Italia per ben due volte. Da una parte ha parlato di Matteo Renzi in occasione della visita nel Nord Africa di Matteo Renzi, e ha chiamato appunto la scelta del nostro premier Financial Times una svolta verso l'Africa. Naturalmente questo è anche importante, questa scelta di privilegiare dei partner, così chiamiamoli, energetici africani rispetto alla Russia, anche alla luce della politica molto aggressiva di Putin. Avete probabilmente seguito questa settimana la vicenda del gasdotto South Stream, che è stato abbandonato, almeno questo è stato l'annuncio. Putin se ne vuole chiamare fuori, potrebbe avere delle conseguenze non solo per l'Italia ma per tutti i paesi europei che hanno un fabbisogno energetico, che non sono minimamente autonomi dal punto di vista energetico, e quindi appunto Financial Times saluta come una scelta intelligente, diciamo, questa di invece muoversi verso l'Africa. Sempre Financial Times è stato anche molto attento a un altro Matteo, sappiamo che ormai li chiamiamo i due Mattei anche noi, naturalmente parliamo di Matteo Salvini, che secondo Financial Times rappresenta quella nuova generazione della politica italiana ma anche europea. È un politico, ha scritto il quotidiano britannico, dall'aspetto giovanile, che suscita molte polemiche con le sue promesse di rovesciare lo status quo, e però è stata la grande sorpresa delle ultime regionali. Sappiamo che la Lega è arrivata al 20%. Secondo il Financial Times naturalmente c'è la componente dell'euroscetticismo, che è pericoloso perché poi Lega, partiti come la Lega Nord, anche al fronte nazionale francese, sappiamo che Marine Le Pen settimana scorsa ha ha elogiato pubblicamente Matteo Salvini e, secondo sempre Financial Times, dell'ascesa di Matteo Salvini non dovrebbe tanto preoccuparsi il Matteo Renzi e il PD quanto Forza Italia, che appunto, come ha dimostrato il caso dell'Emilia Romagna, ha perso moltissimi voti a favore della Lega. Poi parliamo del nostro olio d'oliva, nostro italiano ma anche europeo, forse qualcuno si ricorderà, l'abbiamo citato anche nella rassegna stampa italiana di domenica scorsa, era la copertina della sezione imprese e territori del Sole 24 Ore, questa crisi degli olivicoltori e di chi anche produce vino, perché i raccolti nelle regioni che producono la maggior quantità di vino e di olio e raccolgono anche la maggior quantità di olive sono calati addirittura del 45%, e quindi il New York Times scrive che il 2014 sarà ricordato come l'annus horribilis dell'olio d'oliva italiano, e cita dei dati che appunto noi conosciamo, che sono questi, cioè che c'è stato per fattori meteorologici, soprattutto c'è stata questa crisi di tutto il settore, e secondo Financial Times questa varrà una perdita di business per circa 2,5 miliardi di dollari. Parlavamo della vicenda del gasdotto South Stream, ecco, se ne è occupato anche un quotidiano belga, Standard, in questo caso mi è venuto in aiuto per trovarlo il sito che sapete amo molto, presseurope.eu. Il titolo dell'articolo pubblicato martedì 2 dicembre era Putin cancella South Stream, e Standard, appunto questo quotidiano belga, spiega che Putin ha annunciato che non costruirà il gasdotto perché a causa dell'opposizione dell'Unione Europea, e durante la conferenza stampa il premier turco Erdogan, davanti al premier turco Erdogan, Putin ha dichiarato: non abbiamo il via libera della Bulgaria e quindi la Russia non può proseguire nella messa in opera del progetto. Sappiamo quanti retroscena sono stati ipotizzati su questa retromarcia di Putin, che viene vista appunto soprattutto come un modo per mettere molto in difficoltà alcuni paesi europei. Le Monde invece, questa è una notizia che non ho visto altrove, ha parlato mercoledì di questo accordo definito storico degli europei per un nuovo missile Ariane 6. I rappresentanti dei 20 paesi dell'Agenzia Spaziale Europea, quella che sappiamo ha mandato in orbita da poco anche un'astronauta italiana, la nostra Samantha Cristoforetti, ecco, hanno concluso proprio martedì, il giorno prima di quello in cui è stato pubblicato l'articolo, in Lussemburgo, un accordo sulla costruzione di un nuovo vettore battezzato Ariane 6, e dopo l'adesione della Germania, che fino a poco tempo fa non era così d'accordo, adesso appunto può partire questo nuovo programma. Certo, sono molti costi, sono molto alti i costi, decine di milioni di euro, però forse l'Agenzia Spaziale Europea sta dimostrando che può competere con la NASA o con le agenzie russe, quindi vale la pena di investire questi soldi. Vi segnalo anche, a proposito proprio di istituzioni europee, un articolo invece uscito sulla Gazzetta Wyborcza, che è un quotidiano polacco, anche in questo caso l'ho potuto leggere grazie a presseurope.eu, che l'ha anche tradotto, e qui parla di Donald Tusk, che il 1 dicembre, quindi lunedì scorso, ha iniziato il suo mandato alla presidenza del Consiglio europeo, succedendo a Van Rompuy. Sapete che insomma è un po' un groviglio quello delle istituzioni europee, tutte hanno il loro ruolo, il Consiglio europeo è secondario, diciamo, al Consiglio, alla Commissione, che è un po' il vero governo dell'Unione, però ha un suo ruolo molto importante. Allora la Gazzetta Wyborcza ha fatto l'elenco di quelle che sono le principali sfide. E sicuramente la prima, secondo il quotidiano polacco, è quella, ne abbiamo appena parlato, di mantenere una politica il più possibile uniforme nei confronti della Russia, magari non così allineata a quella americana come è stato fatto fino adesso, però bisogna avere delle idee molto chiare, perché naturalmente Putin parrebbe averle, e quindi altrettanto importante sarebbe che l'Unione Europea avesse una posizione unitaria. Secondo l'altra priorità, naturalmente, è quella della crescita economica. Tutti possono dare il loro contributo, e secondo la Gazzetta Wyborcza anche Tusk dovrà garantire una solida crescita economica per ridurre la disoccupazione, che poi così tanti problemi porta con sé, perché sappiamo che più disoccupazione c'è, meno lavoro c'è, più aumentano le tensioni sociali, e in un momento in cui comunque non diminuisce l'immigrazione, questo può portare anche a gravi disordini. Era l'ultima segnalazione che riesco a farvi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.